Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Iniziamo l'ennesima puntata di transizione in attesa dei playoff con un paio di impressioni a caso sulle sfide visionate domenica, che è generalmente il giorno dove, complici gli orari ed il tempo a disposizione, riesco a visionare approfonditamente più di qualche partita. Malino, malino i San Antonio Spurs, a prescindere dalla sconfitta in quel di Milwaukee e da un'annata di batostone prese in trasferta. È la fluidità di gioco piuttosto arenata che preoccupa, senza dimenticarci che utilizzare un giocatore statico come la Marcus Aldridge come leader offensivo ne determina sicuramente un arrugginimento di ingranaggi. Il lungo proveniente da Portland sta concludendo una stagione statisticamente ineccepibile, ma pare veramente troppo statico considerando che non ha la stoffa per essere risolutore di squadra a livello di prima opzione offensiva, ovviamente secondo me. Togliendo Rudy Gay, Gasol, Ginobili e Parker, che non possono, vista l'età, essere sempre al 100% protagonisti, il supporting cast degli Spurs sta dimostrando notevoli limiti e la Kerel, che investe da circa un anno Kawhi Leonard, potrebbe creare anche grane future semmai il leader conclamato della squadra decidesse di chiedere la cessione. Si tratta secondo me di un giocatore troppo su misura per il sistema di gioco di Popovic, almeno per quanto visto ad oggi, tanto da destar profondi dubbi sul suo rendimento in un ambiente ed un roster differente, senza contare che questo misterioso infortunio potrebbe limitarne le capacità fisiche o mentali future. Il rischio nel caso di cessione forzata di questo giocatore è quello di ottenere meno rispetto al peso che ricoprirebbe se giocasse in questa squadra. Il giovanissimo DeJounte Murray, che è al centro di tutte le attenzioni del sistema Spurs e di un Popovic che sembra forse rivedere in lui la stoffa dello stesso Kawhi in potenziale, appare di contro veramente molto acerbo al momento. Chiaramente è opportuno aspettare l'anno prossimo per farsi un'idea su di lui, ed il fatto di avere accanto Leonard ed Aldridge, oltre ad un processo avviato di svecchiamento definitivo, sarà fondamentale per capire se questa squadra sarà destinata a risalire in breve l'elite della Lega o rischi l'oblio. Bene invece gli Indiana Pacers, che continuano la loro stagione da sorpresona ad est e che dimostrano di avere a disposizione un roster potenzialmente profondo per la varietà rappresentata, sconfiggendo all'overtime di domenica sera i Miami Heat con un clamoroso Darren Collison nel finale. A parte Oladipo, come già detto, è la coppia formata da Thaddeus Young e Miles Turner a stupirmi in positivo, considerando anche le prospettive di crescita e le capacità atletiche dei due, preziosissimi in entrambi i lati del campo. Il primo turno di playoff ad est sarà potenzialmente interessante, perché squadre come questa Indiana, Philadelphia, la stessa Milwaukee ed anche Miami hanno tutte le carte in regola per creare più di un problema alle grandi della conference. Anche perché, soprattutto per il primo turno, il rischio è quello di vedere due delle squadre favorite per la vittoria finale prive dei due rispettivi migliori giocatori in campo, e si tratta di una tegola pesantissima per tutti, principalmente a livello di spettacolo. Kyrie Irving di Boston è stato costretto ad operarsi per stabilizzare la situazione del suo ginocchio ed annullare i fastidi che ne stavano complicando i rendimenti. Il primo turno è seriamente a rischio per lui ed è un'ennesima botta per Boston falcidiata dagli infortuni ed attualmente in linea di galleggiamento ed a pressione in attesa di recuperare almeno Jalen Brown e concentrarsi per la post-season, sperando di poter trovare quantomeno la propria point guard leader del gruppo, superando un primo turno che, come detto poc'anzi, può essere più che insidioso. Sorte analoga per Stephen Curry, rientrato dopo i fastidi alla caviglia e prontamente infortunatosi al ginocchio per una prognosi che dovrebbe aggirarsi attorno alle 6 settimane di stop. Clamorosa sfortuna anche per i Golden State Warriors, che attualmente non stanno schierando né Draymond Green, né Klay Thompson, né Kevin Durant e che dovranno sperare in un loro super recupero per far fronte quantomeno al primo incrocio di post-season, anche perché un pessimista Steve Kerr ha escluso la possibilità che Steph ne possa far parte. Curry di contro ha detto che ce la metterà tutta per provare a bruciare i tempi di recupero, ma la situazione appare simile a quella di due stagioni fa, quando per rientrare rapidamente dopo l'infortunio al primo turno arrivò in finale piuttosto provato, lasciando l'anello ovvero la rimontona nella serie di LeBron e di Cavs. Speriamo il meglio per questi due giocatori, anche perché la loro assenza potenziale rivoluziona gli equilibri che apparivano già scontati quando a metà stagione pronosticavamo una finale Boston contro Golden State. Oggi, a voler essere realistici, i favoriti ad est appaiono di nuovo i Cleveland Cavaliers e non potrebbe essere altrimenti considerando le ultime prestazioni clamorose del re LeBron James, sul quale non mi soffermerò altrimenti perché sembra quasi che parli sempre solo di lui, ma comunque la sua prestazione al Barclays Center di Brooklyn di domenica notte è stata strepitosa in tutti i sensi, lasciatemelo dire, e lasciatemi dire anche che effettivamente non era domenica notte ma per noi era domenica pomeriggio. Salgono vertiginosamente le quotazioni dei Philadelphia 76ers, che chiaramente è esagerato prevedere oltre il secondo turno, ma che stanno concretizzando la maturazione di un organico ben assemblato per gerarchie e per supporting cast. La bella notizia per la città dell'amore fraterno sta nel rientro di Markelli Fultz, la prima scelta assoluta dell'ultimo draft, misteriosamente fuori praticamente dall'inizio stagione, praticamente senza una dettagliata motivazione se non un generico infortunio alla spalla. In ogni modo, colui che è stato molto frettolosamente etichettato come un bust è rientrato lunedì notte chiudendo con 10 punti, 4 rimbalzi ed 8 assist in appena 15 minuti. Assolutamente non male come contributo, considerando che può replicarlo anche nelle prossime gare e se potesse realmente farlo, si tratterebbe di una pedina in più dalla panchina per aiutare Philadelphia a proseguire in una stagione assolutamente positiva, in attesa di rivederne poi la collocazione nello starting five per l'avvio della prossima stagione e di conseguenza capire come può cambiare il contributo di Ben Simmons ed il suo ruolo a livello di creatore di gioco all'interno della squadra. Interessante invece, guardando ad ovest, la situazione di Portland, che appare una delle squadre più in forma della Lega e lo ha dimostrato sconfiggendo, seppur nel finale, gli Oklahoma City Thunders in casa loro, complice di nuovo un Carmelo Anthony pessimo per tutta la partita, protagonista degli errori decisivi nel finale. Per Oklahoma i problemi difensivi sono noti ed appaiono a mio avviso realmente limitanti in vista dei playoff, anche perché non sembrano esistere soluzioni effettive e potenziale di miglioramento al riguardo. Anzi, c'è da registrare una involuzione tremenda del già citato Carmelo Anthony in questo finale di stagione ed anche un rendimento al ribasso per Paul George a partire dalla pausa per l'All-Star Game ad oggi. In una condizione del genere basta trovare la soluzione per imbrigliare e limitare Russell Westbrook ed il gioco è fatto, considerando che offensivamente Steven Adams dipende tantissimo dalle assistenze del numero 0, oltre che dalla sua capacità di catturare rimbalzi offensivi. I Trail Blazers hanno sostanzialmente fatto così domenica sera, in un primo quarto clamoroso, dove sembravano aver già scavato il parziale decisivo fin da subito attraverso una difesa aggressiva ed una precisione al tiro spaziale, soprattutto con una fluidità di gioco, una circolazione di palla incredibile, capace di esaltare le capacità balistiche di Lillard e McCallum, ma anche e particolarmente un supporting cast scintillante. Malgrado tutto, continuando a considerare questa gara come spunto d'esempio, quindi il fatto che OKC è riuscita a recuperare già dal secondo quarto il parzialone subito per perderla poi alla fine, anche qualificandosi per terza, nutro comunque seri dubbi sui Portland Trail Blazers in chiave proseguo nella postseason. Apparentemente appaiono squadra vera, che però sembra attraversare più un periodo magico che concretizzare una maturità raggiunta. Staremo a vedere se mi sbaglio o meno. Andiamo velocemente adesso a decretare la top 5 dei rookies per la stagione in conclusione di NBA Week. Fuori classifica metto il buon Lonzo Ball, probabilmente non destinato al ruolo di superstar propagandato dal padre, ma di sicura importanza nel futuro della Lega. Saprà sicuramente crescere e migliorarsi nella off-season, almeno questo è quello che a Los Angeles più o meno tutti si sperano, ovviamente in sponda Lakers. Fuori di un pelo per me anche Dennis Smith Jr., giocatore che mi piace molto e che probabilmente l'anno prossimo riceverà le chiavi di Dallas, squadra che un po' ne limita la valutazione rispetto agli altri per rendimento. Al quinto posto metto Kyle Kuzma, che è l'autentico steal of the draft dell'ultima edizione di scelte. Giocatore sorprendente, già pronto a recitare parti importanti in potenziali supporting ad una o due grandi stelle. Staremo a vedere quello che succederà a Los Angeles e sponda Lakers semmai al riguardo. Al quarto posto metterei Lauri Markkanen di Chicago, perché da un certo punto di vista ha stupito ancor più di Kuzma stesso, o perché almeno io non mi aspettavo tanta qualità e quantità da dietro l'arco da parte di questo giocatore, e perché è anche lui uno degli indubbi trascinatori del futuro della propria franchigia, ed infine perché appare anche più maturo e consapevole di colui che lo precede. Numero 3, Jason Tatum di Boston. Occhio, perché è il giocatore più pronto ad essere decisivo per singolo possesso del lotto ed è quello che ha recitato la parte più importante fin da subito in una delle squadre di vertice nella Lega. È giocatore versatile, è ottimo difensore, ha un buon tiro dalla distanza, sa passare. Da un certo punto di vista, considerando che arrivava nell'NBA con tantissimi dubbi da parte degli osservatori, è di fatto una sorpresona pure lui. Si tratta del giocatore che sempre vorrei avere nella mia squadra, per il quale, se si pensa ai margini di miglioramento potenziale, non è preclusa neanche l'ascesa a status di superstar di domani. Già così, alla fine della sua prima stagione, è un perfetto secondo violino. A tratti mi ricorda, forse proprio per questa sua caratteristica, proprio Scottie Pippen, che all'età di Tatum non aveva né quella personalità né quella qualità di tiro da fuori. Statisticamente soffre tantissimo come rendimento il giocare in una squadra corale come Boston, dove non è leader di possessi, pur non avendo disdegnato di esserlo in certi momenti decisivi dove la palla scottava. Io lo metto distanziato dai primi due, ma in un mondo perfetto starebbe tranquillamente in ballottaggio per il titolo finale. Anzi, forse in un mondo perfetto, tra i due litiganti, il terzo che gode potrebbe essere proprio lui. Al numero 2, in quella che sembra una sfida testa a testa per il migliore, io metto clamorosamente Ben Simmons di Philadelphia. Allora, questo giocatore è entrato teoricamente nella Lega lo scorso anno, seppur sia rimasto ai box tutta la stagione dopo un infortunio di preseason. L'eccessiva maturità in campo mostrata fin da subito rispetto al resto dei colleghi di classe sarà sicuramente da essere imputata a questo assoluto dato di fatto. Fisicamente, per capacità, è un giocatore irreale, con potenziale di miglioramento incredibile. Sia a livello di passatore che a livello di attacco al ferro è indubbiamente il migliore del lotto. Anzi, paradossalmente è molto meglio nei suoi movimenti da lungo, un ruolo che ovviamente non è il suo, che in quelli da guardia, con un tiro da fuori un po' troppo latitante, che avrà sicuramente modo di sistemare in estate. Con Embiid ha formato fin dall'inizio una coppia che, secondo me, è destinata a dominare la Eastern Conference già in un futuro prossimo, e con il rientro di Markelli Fultz, che è chiaramente fuori da questa classifica, avendo giocato praticamente niente, sarà curioso vedere come i due si scambieranno i ruoli. Per potenziale, Ben Simmons è la cosa più vicina a LeBron James che la Lega offre oggi, il che dovrebbe bastare ed avanzare per fargli vincere il premio. Anche all'interno della sua squadra, che ha completato il tanto auspicato salto di qualità, tornando ai playoff, il suo ruolo è assolutamente centrale e decisivo. Ed allora, perché lo metto al secondo posto? Vediamo di capirlo arrivando al numero 1, che è ovviamente Donovan Mitchell di Utah, l'uomo che tra l'altro ha vinto anche la gara delle schiacciate all'All-Star Game, che non è ovviamente una nota di merito per la quale possa essere determinato il miglior rookie dell'anno, ci sono altre ragioni ovviamente. Questo giocatore si è caricato sulle spalle i Jazz per tutta la stagione, con responsabilità crescenti al salire della sua esperienza nella Lega ed al crescere della stagione stessa. Non sarebbe esagerato definire i Jazz portati ai playoff proprio da Mitchell, per quanto Utah abbia beneficiato in questa stagione di una squadra ben strutturata, umile, impreziosita anche da un ritrovato Ricky Rubio. Tuttavia questo giovane rookie ha dimostrato capacità realizzative uniche, soprattutto varietà di movimenti e tiro da dietro l'arco illimitato. Qualcosa che offensivamente non abbiamo visto nei restanti colleghi di classe, per quanto niente di innovativo come Simmons, né di straordinariamente pronto all'infallibilità clutch tipo Tatum. Tuttavia, almeno io vedo in Donovan Mitchell quella Mamba mentality che lo renderà una indubbia stella di domani, perché adesso come adesso, con tutti i giustissimi limiti relativi all'età ed all'esperienza, è già tra i go-to guy della sua franchigia. E in questa capacità di continua crescita, in questo fuoco agonistico che lo porta a giocare quarti strepitosi, che a tratti rivedo l'ombra di Kobe Bryant, o quantomeno la lezione di Kobe applicata. Considerando la sua giovane età, io il premio lo darei a lui. Vediamo come decideranno gli esperti, gli allenatori e comunque coloro che avranno responsabilità di incoronazione al riguardo. Benissimo, anche questa settimana NBA Week giunge al termine. L'appuntamento è rinnovato per la prossima, ovviamente. Seguiteci se volete sulla nostra pagina Facebook che si chiama NBA Week. Per ascoltarci, comunque, gli appuntamenti settimanali restano sempre i soliti. Tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World. Tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13. Tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo tra 7 giorni con NBA Week.